ti, Coimbre, babaraba ti, compa, babaraba ti, Coimbre, babaraba ti, Coimbre, babaraba ti, Coimbre, babaraba ti, compa, babaraba ti, bati, bati, bati, bati, bi, bati, babaraba ti, bi, bati, bati, bati, bati, bati. Babaraba TV, babaraba TV, babaraba TV, babaraba TV, babaraba TV, babaraba TV. Coimbre, babaraba ti, compa, babaraba ti, Coimbre, babaraba ti, compa, babaraba ti, Coimbre, babaraba ti, Coimbre, babaraba ti, Coimbre, babaraba ti, compa, babaraba ti, bati, bati, bati, bati, bi, bati, babaraba ti, bi, bati, bati, bati, bati, bati. Babaraba TV, babaraba TV, babaraba TV, babaraba TV, babaraba TV, babaraba TV. Thank you.